io son il mondo che di grandezze adorno, e il braccio mio sto pieno in ogni parte stendo. Miei son tutti tesori, tutti gli argenti e l'ori, le superbe ricchezze, le famose bellezze, i principati degni, i poderosi re. Servirte, itto mio può venire con molto suo diletto, tra cose gli prometto. Alma, gran cosa intendo, se il mondo dice il vero, vorrei mutare pensiero. E fatti o sto pensando, s'insieme potessio, servire al mondo divino. Non si può aver due cuore, e servire la cara vita, tanto da voi gradita. mi all'aspetto, io come che prometto, credete il bel presente, vivete allegramente. Io ti son spirito e ne contrasti più. Metti giù questa spoglia, o di vederti voglia. Fai l'angelica forza, per qual cagion mi sforza. Oh, oh, oh, oh, il mondo tutto è poverello, è brutto. Pentito non sai panni, da più, da più inganni.